Io adesso mi restringo a una parte relativamente piccola di quello che è musica e società, che è evidentemente è molto più ricco, ma la dimensione che c'è di critica politica, io la trovo, letta col senno del poi, come si suol dire, la trovo parecchio prescente, Parecchio? prevedente, Ah, preveggente. anche a me E sembra, ci sono sì. molte analisi che ti descrivono assai bene quello che ha fatto la cosiddetta sinistra italiana negli anni Bebbacca. 90 e 2000, Questo quindi l'ho un visto quarto di anch'io. secolo dopo. E quindi capisco che si siano incazzati perché probabilmente quando dico che questo è stato prescente non è che ti attribuisca dei poteri soprannaturali, anzi probabilmente l'unica cosa che facevi era avere gli occhi aperti e Eh già. leggere quello che era a disposizione di tutti. Probabilmente anche loro lo leggevano, solo che loro lo rifiutavano e per quello si sono incazzati, Sì, perché e poi credo anch'io. si sono trovati, non è Nudi. che ci sia stata la calunnia, c'è stata semplicemente la descrizione piuttosto fredda di dove sarebbero andati a finire. Sì, anch'io penso questo. Difatti io per molti anni, bisogna dire, diciamo, a parziale mia, come posso dire, difesa, che siccome dopo questo libro io mi sono iscritto al PCI e da quando mi sono iscritto io non ho mai citato questo libro e non ho mai detto che nemmeno che l'avevo scritto e quindi questo è rapidamente passato nel dimenticatoio. Non per farmi un piede bianco col partito, ma perché la mia speranza era quella di poter agire all'interno del partito per cambiare le cose, nel senso come vedevo che stavano andando. Viceversa, quella fu una pia illusione. E oggi, dopo tanti anni, mi è ricapitato tra le mani questo libro e anch'io ho notato quello che dicevi tu, addirittura dei caratteri divinatori, perché alcune delle cose scritte poi effettivamente si sono verificate, per esempio questo connubio fra comunismo e capitalismo, insomma, è stato poi. Leggo e capisco quanto si siano incazzati. Numero 113. Il Partito Comunista Italiano farebbe quindi bene autoanalizzarsi per scoprire in se stesso l'eventuale possibilità di superamento dei limiti imposti alla sua azione politica da quel suo dovere scegliere tra opposizione e compromesso, entro un discorso che lentamente ma inarrestabilmente si va vanificando. Eh sì, l'unica cosa che sì, in molte parti del libro c'è questo tono un po' profetico, no? Che evidentemente mi divertiva anche. E quello che non è mai chiaro, perché non era chiaro a me, io parlo continuamente di cosa dice il nuovo Il discorso, nuovo no? discorso, sì. Il termine non me l'ero inventato io. Veniva dalla cultura della gauche francese. Io ero abbastanza, diciamo, lettore di alcune riviste come Communication e Musique en Jeu, e ci sono degli articoli splendidi di quegli anni, in cui effettivamente sembra di vedere nascere un nuovo discorso, discorso in senso foucaultiano, un nuovo modo di organizzare i rapporti sociali, la comunicazione, eccetera, quindi discorso in senso molto ampio. E in qualche maniera io sono debitore anche di quella linea lì della nuova sinistra francese. E solo che io mantengo questo tono, ripeto, un po' così, un po' da oracolo. E a discolpa di questo posso dire che immediatamente dopo ho provato concretamente a tentare, a fondare un nuovo modo, un nuovo discorso. E tuttora sto lavorando a questo progetto. Il discorso che oggi porto avanti, portiamo ormai avanti in tanti, non sono fortunatamente più solo, è di questo tipo, nasce da qui. Ed è sostanzialmente l'ipotesi metaculturale e tutto quello che la circonda, che a quell'epoca ancora non c'era, anche se in nuce in qualche parte lo si può forse già intravedere. E se quello che si intravede naturalmente non è un prodotto mio, ma viene dalla cultura che frequentava a quell'epoca, che ripeto era quella francese. Foucaultiana e compagnia. Io rimasi molto colpito dalla lettura di Les Mots, Les Choses, tuttora, ormai non me lo ricordo nemmeno più, un libro che ho letto con amore allora, ma non solo quello, anche discorsi di Morin che ho ripreso in mano recentemente, e mi pare di poter dire che laddove Morin è rimasto sostanzialmente su delle posizioni teoriche molto forti, molto belle, il merito nostro, se c'è stato, è quello di aver tradotto questo in azione pratica, cioè nel lavoro concreto con i ragazzini, tanto per capirci. Ma infatti ci sono, nell'analisi che fai qui, io trovo seducente, perché evidentemente abbiamo dedicato qualche parola all'analisi di quegli anni, ma al di là di quello che contestualizzare non lo trovo tanto interessante, a dir vero. E loro stessi si sono condannati alla irrilevanza crescente, quindi... Invece il collegamento con IMC lo trovo molto, molto interessante, e citerei il numero 116, che lo trovo assai metaculturale. Dice: il discorso nuovo non si oppone al vecchio. Questo è già una dichiarazione di metaculturalità, ma lo assume a proprio oggetto. Cioè, esce, se vuoi, detto con il linguaggio che hai perfezionato 20 anni dopo, il discorso nuovo semplicemente prende consapevolezza dell'UCL del vecchio e ne estrae questa consapevolezza il potere analitico per uscirne fuori da quell'UCL e assumerlo a proprio oggetto, che è un'operazione metaculturale per eccellenza. Sì. Discorso di un discorso. Più meta di questo, cioè meta discorso letteralmente. E qui dico... secondo quella che sembra essere l'episteme, in senso foucaultiano, del mondo attuale. Io qui non mi curo di specificare al povero lettore che cos'è l'episteme. Vabbè, e stai parlando sempre in questa lunghezza d'onda, certo, alto colta, e dici: cazzo, questo deve aver Foucault sotto il cuscino. Proprio. Certo, sì. Certo. Anzi, quindi qui questo, vedi chiaramente l'origine di IMC. È il pensiero della sinistra, in particolare di Foucault. Abbiamo trovato un momento storico, credo. Questo 116 è proprio uno delle... Sì. Secondo me dei semi... Rimane il mistero, il discorso nuovo, dei non semi si di sa MC. Che cos'è. No, non lo dico perché non lo so a quell'epoca ancora. 10 anni dopo l'avrei saputo. Ma è una cosa normale comunque, il fatto comunque di parlare di... Sì, non serve avere, in quel momento lì non serviva forse avere ancora una idea nuova, serviva più che altro cioè proprio abbattere le barriere che ci avevi intorno, quindi uscire da quelle barriere. Uscire. E generalmente uno fa così, quando ad esempio c'è un momento di stallo oppure un momento spiacevole, poi si butta tutto a mare, butti tutto a mare, hai bisogno di... disprezzare quasi quello che ti sta intorno, esatto, che schifo tutto quello che è, eccetera, per andare un pochino, fare quel passettino che batte l'inerzia, insomma. Certo. Una volta battuta l'inerzia, poi ti preoccupi realmente di rivalutare le tue osservazioni, certo, eccetera. Però è vero, è una caratteristica umana questa qui, comunque. Sì, però penso anche che se qualcuno poi ti vuol colpire, adesso non so, ma penso che qualcuno sicuramente avrà detto o pensato... vabbè, ma te che cosa sai di discorso nuovo? Ma so parole, so chiacchiere, che è il discorso nuovo? E io non mi impegno minimamente a spiegarglielo. Ma però... perché non lo sapevo. Appunto. Sì, ma diciamo, visto a una certa distanza, può essere addirittura affascinante che ci fosse questa idea, un discorso nuovo che non si sa bene che cos'è, che poi però man mano si è andato definendo in termini anche molto semplici, molto accessibili, eccetera. Ma uno allora che volesse attaccare questo libro, non era difficile, diceva: questo tu meni camperlaia, ti parli di questo discorso nuovo, ma non si sa di sì, chi stai a parlare. Infatti io credo che questo libro, adesso senza offesa, sia meglio da leggere oggi e quindi rendersi conto che, anzi, dà valore all'autore, perché dice: cacchio, questo qui comunque ci vedeva lontano, in quel periodo lì pensava già delle cose. Ed è bello come momento di passaggio. L'altro giorno stavamo analizzando i primi tentativi cromatici, sì. E, diciamo, che non erano i primi tentativi, ma e quindi c'era quel linguaggio poco chiaro, un po' criptico, sì. Che sì, aveva qualcosa di antico, no? Che veniva dalla tradizione, e qualcosa di nuovo, che però non si capisce bene, si capisce da un dettaglio che sì, proviene da qualcosa che c'era già, ma è qualcosa di nuovo che non si sa. Non si sa. E l'autore non si sa bene come sta procedendo forse un po' a caso, diciamo. Esattamente. Ma si muove. Quello lì è una testimonianza del processo di crescita, diciamo, di sviluppo che poi che era già in moto. Ma questo che tu dici è molto interessante, anzi, se tu fossi più, diciamo, abituato e interessato a scrivere parole anziché note, direi sarebbe molto interessante uno studio, un saggio proprio su questo argomento. Cioè, come spesso nei periodi di crisi si formino queste idee, diciamo, confuse e poco definite, no? Che lì per lì magari addirittura danno fastidio. E poi il postero si accorge che queste idee contenevano delle cose che nemmeno l'autore poteva immaginare, sì. Naturalmente. E citare come esempio appunto quello del linguaggio musicale nell'epoca, nei primi anni del Novecento, per esempio. Cioè che questo meccanismo sia trasferibile, ecco la parola che adesso ci rimanda, ci rinvia al libro di, come si chiama l'autore? Cristobaldo. Rigobaldo van der Mispel. Ecco, appunto, che è uno dei grandi... Questo sprovveduto. Sì. Quindi come questi parallelismi si trovino tutto sommato abbastanza di frequente, e noi possiamo interpretarle anche come forma di trasferimento di un modo di pensare, uno stile, addirittura di una crisi da un settore a un altro con degli elementi strutturali comuni, come questo della non chiarezza, non chiara individuabilità degli elementi significanti del linguaggio. Io lo porterei, insomma, mi sembra che si possa dire che alla base di questo meccanismo c'è un po' l'istinto di sopravvivenza, in un certo senso, perché come uno cerca di arrangiarsi e, per dire, procurarsi del cibo, in un momento di crisi psicologica, quindi di profonda sofferenza, perché non c'è soddisfazione, non c'è, vabbè, mancano un po' di cose, e ce ne sono in abbondanza di altre, uno ha bisogno di uscire, quindi rompi degli schemi che sembrano sempre chiari, un po' poi infatti anche MC si attacca a questo discorso qui, rompi e elimini determinati paletti a cui tu sei abituato a livello culturale, a livello... Te ne liberi per un secondo e farfugli qualche cosa. Farfugli, certo. E questo farfugliare ha l'idea che non si capisce niente, però poi... Quello che puoi fare in quel momento. Continua a pensarci, sì. Ma il farfugliamento, ecco. Io infatti spezzerei una lancia attraverso il farfugliamento, perché in modo non metaculturale normalmente li martelliamo, colui che farfuglia. Invece potrebbe essere molto rispettabile il farfugliare, nel senso che proprio rompere il guscio, venire fuori a una consapevolezza nuova, a un mondo nuovo, e utilizzare quel cazzo di linguaggio che in quel momento puoi utilizzare, perché stai venendo fuori dal guscio, farfugli. Cazzo, meglio farfugliare che non ripetere le vecchie parole. Questo senz'altro. Se la vita poi ti dà le carte buone e tu te li giochi bene, quel farfugliamento diventerà nuovo discorso. Certo. Discorso articolato, pacato, sobrio, sì. Comprensibile, ma venga il farfugliamento. Sì, benissimo.